le modalità con cui si è arrivati alla sua designazione per qualcuno è stata un po' una sorpresa. Era convinto che giustamente ci fosse diritto per la Democrazia Cristiana di un posto in governo? Ma sa, io penso che oggi dobbiamo fare i conti col Popolo delle Libertà. Per me Forza Italia, AN e la DCA non ci sono più perché hanno fatto assieme un partito. È un partito in cui credo e la mia presenza al governo è occasionata dal fatto che ancora Forza Italia e AN hanno parlato, preparando la squadra di governo, in termini dei partiti che furono. Allora, se i cari estinti loro erano ancora vivi, è giusto che il presidente Berlusconi abbia deciso di dar spazio anche a una componente piccola, ma che è stata leale in tutti questi anni e che è a sua volta un caro estinto, nel senso che io penso che la storia politica di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della DC sia conclusa. Stiamo per preparare un congresso che sarà una grande chiamata per tutte le italiane e gli italiani che credono nei valori della libertà, ed è una tradizione che è cristiana, ma che è anche di quei non credenti che hanno saputo collaborare con i cattolici per edificare la democrazia italiana. E quindi il Popolo delle Libertà veramente può essere il partito del popolo italiano. Quali sono i punti programmatici su cui lei dal suo dicastero vigilerà maggiormente? Beh, tutti. Il garante del programma è Berlusconi. Il mio è un compito esecutivo. Penso che l'Italia abbia eletto una specie di grande sindaco, perché la storia di queste elezioni è un rapporto diretto tra gli italiani e Berlusconi. È inutile che ci montiamo tutti la testa, dai ministri più piccolini a quelli più grandi. Il sindaco è lui, noi siamo assessori, gli assessori devono fare il loro mestiere, possono essere cambiati in corso d'opera. Dobbiamo abituarci a una politica impresa diretta che avvicini veramente, non a chiacchiere come si dice, il governo, la politica, le istituzioni al cittadino. Quindi fare bene, ma soprattutto avere il senso dei propri limiti.